problemi sono risolti. Oggi che hai deciso che te ne vai, e i tuoi occhi zitti e scuri che non sorridono mai si apriranno su ancora non vai, ancora non vai. Ieri i tuoi problemi erano montagne, tra quelle colline ci sarò anch'io a guardare l'orizzonte del tuo sorriso che va solitario su ancora non vai, ancora non vai. La mia vita e la tua vita si sarebbero incontrate in un bosco detto cuore, e i tuoi occhi nei miei occhi si sarebbero tuffati in un prato detto amore. E adesso dimmi, i tuoi pensieri fioriranno senza di me sorgere il sole sulle vie. Domani senza più problemi, cara amica, mi imbroglio solo fantasie. Forse i tuoi problemi saranno diversi, ma saranno problemi dovunque vai. E ricorda che i miei occhi che non sorridono più guariranno su ancora non vai. Sarebbero tuffati in un prato del tuo amore. E adesso dimmi, i tuoi pensieri fioriranno senza di me sorgere il sole sulle vie. Domani senza più problemi, cara amica, mi imbroglio solo fantasie. Dimmi, i tuoi sonni dormiranno ora che lasci segni sulle mani mie. Coraggio, prendi i tuoi pensieri, la tua vita è un regalo a queste ali mie. Oggi i tuoi problemi sono risolti, oggi che hai deciso che te ne vai.